Di tanto in tanto l'opinione pubblica rimane scossa sentendo che dei giovani compiono gesti deplorevoli o raccapriccianti, come uccidere o stuprare ragazze. Quando in seguito si indaga di tanta violenza e immoralità, si viene a conoscenza che i giovani volevano emulare un loro eroe o imitare quello che hanno visto sugli schermi televisivi o cinematografici. Altri ancora, persone giovani e non, dalle letture di libri o giornali sono indotti a compiere furti, truffe e ogni sorta di disonestà. Questi fatti dimostrano quanto impatto abbia nella nostra vita quello che vediamo e del quale veniamo a conoscenza, e non si può affermare che nessuno, ma proprio nessuno, ne rimanga interamente immune, anche se sul momento potrebbe apparirne incontaminato. Il cervello di un uomo registra sempre e comunque le nozioni che riceve. Lo dimostra molto bene il fatto che psicologi e psichiatri, mediante i sogni o le malattie psichiche dei loro pazienti, sono in grado di comprendere eventi del passato. Ecco perché è molto importante tenere sotto controllo quello che si legge. Dato che il nostro cervello è l'organo più importante del nostro essere, se una mente è nutrita in modo sano, resta tale e influenza positivamente il benessere del nostro corpo. Inoltre, non è possibile ricordare ogni cosa, per questo è oltremodo saggio nutrire il cervello solo di cose buone. A proposito, Sir Conan Doyle fa notare da uno studio in russo la seguente verità. Il cervello di un uomo, in origine, è come una soffitta vuota. La si deve riempire con mobilio di nostra scelta. L'incauto vi immagazzina tutte le mercanzie che si trova tra i piedi. Le nozioni che potrebbero essergli utili finiscono col non trovare più il loro posto o, nella migliore delle ipotesi, si mescolano con una quantità di altre cose, cosicché diviene assai difficile reperirle. Viceversa, lo studioso accorto seleziona accuratamente ciò che immagazzina nella soffitta del suo cervello. Ci mette soltanto gli strumenti che possono aiutarlo nel lavoro, ma di quelli tiene un vasto assortimento e si sforza di sistemarli nell'ordine più perfetto. E, un grave errore, illudersi che quella stanzetta abbia le pareti elastiche e possa ampliarsi a dismisura. Viene sempre il momento in cui, per ogni nuova cognizione, se ne dimentica qualcuna acquisita in passato. Di conseguenza è importantissimo evitare che un assortimento di cognizioni inutili possa spodestare quelle utili. Proprio perché il nostro cervello è limitato nella ricezione e proprio perché dalla sua salute dipende la nostra salute morale e fisica, prendiamo in esame quello che produce la lettura della parola di Dio nella vita di una persona, per poi verificare se vale oppure no la pena reggerla. La lettura della parola di Dio produce moltissime benedizioni incalcolabili nella vita di una persona. Prenderne in esame anche soltanto 9 ci aiuterà a prendere coscienza di quanto sia opportuno, indispensabile e saggio avere una mente generata e formata. Giovanni 20, 30-31. La lettura della parola di Dio produce la fede che salva. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni è da ritenere prima di tutto un libro come qualsiasi altro. Chi scrive è motivato dal desiderio di comunicare qualcosa, e l'Evangelista Giovanni ha scritto il suo libro per comunicare principalmente 2 cose. 1. Affinché chi legge possa credere che Gesù è nato da una vergine mediante lo Spirito Santo e perciò è il Figlio di Dio. 2. E affinché chi crede in Lui ottenga la vita eterna. In un paese di tradizione cristiana, queste notizie non fanno molto scalpore, ma se queste 2 verità vengono prese sul serio, sono in grado di cambiare totalmente una vita. Se Gesù è il Figlio di Dio, un termine questo che non si riferisce al fatto che Cristo è nato dopo il Padre, ma che ne esprime il rapporto con Dio, allora non abbiamo più dubbi riguardo a quale sia il mezzo per conoscere il Dio Trino. Gesù ha detto che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, perciò voler conoscere il Padre Celeste o ritenere di conoscerlo senza prima conoscere personalmente Cristo Gesù è una follia umana. Questo spiega perché non è sufficiente appartenere ad una religione per conoscere il Padre Celeste, perché la religione non è in grado di farci conoscere Dio. Purtroppo sono molti coloro che si accontentano di essere cattolici, protestanti, ebrei, musulmani o ortodossi, senza porsi il problema di Cristo. Donavo il Vangelo ad un musulmano e questo di colpo mi rispose che aveva la sua religione, testimoniavo ad un cattolico di Cristo, e questo mi rispose di non voler cambiare religione. Forse anche tu tieni alla tua religione al punto che non la cambieresti per nessuna ragione al mondo, ma questo errore si paga in questa vita e conduce alla perdizione eterna. Leggi la parola di Dio, meditala, ed essa produrrà in te la convinzione che senza l'accettazione del perdono di Dio offerto nel sacrificio di Cristo, sei inesorabilmente perduto. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha scritto il suo Evangelo per questo, ed io, tu o nessun altro, hai il diritto di pensarla diversamente. Le nostre convinzioni personali possono anche differirsi da ciò, ma in realtà non sono altro che una menzogna nella quale è inutile e dannoso rifugiarsi, come non serve a nulla. Bere del veleno, convincendosi che sia acqua. L'Evangelista Giovanni ha scritto il suo Evangelo perché i lettori che avevano creduto in Cristo, quale proprio Salvatore e Padrone, sapessero di avere la vita eterna. Questo è uno dei tanti benefici prodotti dalla lettura della parola di Dio. Pochissime persone hanno compreso che essere certi di possedere la vita eterna è un dono che si riceve solo mediante la lettura quotidiana della parola che procede da Cristo e da Dio. Infatti, in nessuna religione, ma proprio in nessuna, viene data la sicurezza che chi pone fede nella divinità da essa presentata riceva la certezza già su questa terra di possedere una beatitudine futura. Perfino il cattolicesimo romano, con tutte le sue regole, leggi e dogmi pretendenti di rifarsi alla verità, non offre ai suoi seguaci la certezza di avere, una volta e per sempre, ottenuto il perdono dei peccati commessi nell'arco intero dell'esistenza e di conseguenza la sicurezza di andare alla presenza di Cristo. Che il cattolicesimo romano non offra la certezza del perdono dei peccati è dimostrato dal fatto che in ogni funzione religiosa si chieda continuamente il perdono dei peccati, usando a tal fine anche con l'espressione «Signore abbi pietà di noi». Espressione questa, ripetuta migliaia e migliaia di volte fino alla morte. Inoltre che l'essere certi già su questa terra di possedere una beatitudine futura sia un logico atto attestante la fede, prodotta dall'udire la parola di Dio, lo dimostra anche il fatto che certi credenti pensano di perdere la salvezza ottenuta per fede in Cristo. Se fosse veramente possibile perdere la salvezza in Cristo, l'Evangelista Giovanni non avrebbe rassicurato i suoi lettori affermando che con la loro fede hanno ottenuto la vita eterna, li avrebbe ovviamente avvertiti della temporaneità della certezza della salvezza, ma una lettura costante, attenta e quotidiana della parola di Dio produce nel credente una sicurezza che proviene da Dio. Nessuno, ma proprio nessuno, se non è squilibrato, può affermare di sapere fin d'ora di possedere per sempre la salvezza, a meno che non prenda sul serio le parole di Cristo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Giovanni 10:26. Se la salvezza ottenuta per fede si potesse perdere, Gesù per primo non si sarebbe espresso in un modo così categorico, dichiarando che non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Di fronte a queste promesse così sicure, dubitare di perdere la salvezza è disonorare Gesù e quindi il Padre che lo ha mandato. La lettura della parola di Dio non produce una fede generica, ma la fede che salva. Nel dialogo religioso, questo aspetto acquista l'importanza pari a quella che ha l'aria per respirare. Purtroppo, più che cercare la verità per essere in armonia con la realtà della vita, le persone mantengono le proprie opinioni soggettive come una roccaforte, nella quale serrarsi senza preoccuparsi di esaminarle né di metterle in discussione. Noi abbiamo le nostre abitudini, la nostra morale, le nostre opinioni, cosa inevitabile, anche perché fanno parte del nostro essere, ma è veramente drammatico riposare sulle nostre certezze solo perché pensiamo che siano vere. Penso agli induisti, che credono nella reincarnazione. Per questo essi non mangiano nessuna carne di animale e soffrono la fame pur avendo tutto alla loro portata. Penso ai molti religiosi che vivono una vita di paura e a volte di terrore al pensiero della perdizione eterna. Penso alle false credenze, come quelle dei musulmani convinti di ottenere in paradiso mogli vergini. Queste sono alcune false idee seguite da tante persone, le quali hanno alla loro portata la verità che si trova nelle scritture dei cristiani. La lettura della parola di Dio produce le certezze che provengono dalla verità e non dalle nostre convinzioni. Quando parlo di convinzioni mi viene in mente quasi sempre un episodio che mi ha fatto molto sorridere. Ero andato in paese per fare una spesa e incontro un amico che non vedevo da molto tempo. Come si fa in molte conversazioni, poco dopo mi chiede l'età e tutto stupito mi dice che ne dimostravo 10 di meno. Di fronte alla mia incredulità mi assicura che le cose stavano così. Faccio pochi passi e incontro un altro mio amico che anche non vedevo da molto tempo e nel salutarmi questo mi fa notare come ero invecchiato. Mi chiede l'età e saputala, mi dice che dimostravo 10 anni di più. Di fronte alla mia incredulità mi assicura che dimostravo veramente 10 anni di più. Da quel giorno ho compreso maggiormente come sia possibile avere delle convinzioni e prendere degli abbagli. Noi possiamo ritenere una religione giusta o sbagliata. Possiamo essere convinti di avere la vera fede, ma non per questo una non verità diventa verità. La parola di Dio produce la fede che salva, perché Gesù Cristo, secondo la sua stessa dichiarazione, è la verità. Perché la sua parola è verità, perciò o salva la fede in Cristo o nessun'altra fede salva. Questi sono i termini del problema religioso. Si può negare o accettare, si può credere o rifiutare. Ma non cambia nulla, ma proprio nulla. Gesù Cristo è Dio, e la sua parola produce la fede che salva. A noi non resta che accettarla. 2. Ebrei 4.1-2.13. La lettura della parola di Dio convince di peccato. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. E penetrante, fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Quando si sente parlare di peccato, si pensa subito che questo termine abbia a che fare con la religione. Nel nostro immaginario vediamo delle persone mistiche che si flagellano per non cadere nella tentazione del peccato e in tutto quello che ci piace. Molti concordano con quel buon tempone, affermando che tutto ciò che piace è peccato o ingravida. Ma le cose non stanno esattamente così. La vita è disseminata di tanti piaceri e gioie come passeggiate all'aria aperta, annusare i buoni profumi della natura, la soddisfazione di realizzarsi nella vita, la gratificazione di far del bene al prossimo e di essere utile, senza tenere presente le soddisfazioni corporali di ogni giorno, quali il mangiare, bere, defecare e riposare. Il Dio trino delle scritture non è contrario ai piaceri legittimi della vita, giacché è lui stesso ad averli creati, né è contrario, come invece alcuni pensano, alla sessualità. Ma Dio esige che la sua creatura non faccia ciò che procura dolore e disarmonia nella vita. Se quando ci rivolgiamo al Dio trino Gesù ci invita a chiamarlo Padre, significa che come ogni Padre, egli ci dona le cose buone, rifiutandoci le cose che per noi sarebbero dannose. Diversamente, Dio sarebbe un pessimo padre. Se come genitori diamo ai nostri figli le cose che procurano piacere, e rifiutiamo loro le cose che sarebbero controproducenti, perché Dio dovrebbe comportarsi diversamente. Si dà il caso però che, a causa delle nostre inclinazioni al male, le cose che ci piacciono di più sono quelle controproducenti, sia perché sono un male in se stesse, sia perché Davanti ad esse non sappiamo trattenerci. Facciamo due esempi. Mangiare cose dolci è una delle più grandi delizie. Lo dimostrano i bambini quando si trovano davanti ad una torta o altre ghiottonerie. Ora, lo zucchero di per sé stesso non è certo un male, ma lo diventa nel caso in cui il corpo sia gravato da disfunzioni fisiche, quali fra altre il diabete, che costringe a una dieta rigorosamente carente di zuccheri, senza la quale si pagherebbe un costo alto, fino alla perdita della vita stessa. L'altro esempio è la sessualità. Essa non è sbagliata, ma espressa fuori dal contesto del matrimonio. Illecito diventa illecito. Nel caso del diabete lo zucchero è lecito, ma conduce alla morte a causa di una disfunzione fisica. Nel caso della sessualità, essa è lecita ma sbagliata se non è regolata dalle leggi morali ordinate da Dio. Una volta compreso cosa non sia peccato, possiamo considerare cosa sia peccato e perché. Il peccato è innanzitutto un errore, o i suoi sinonimi, cioè è una mancanza, uno sbaglio, un fallo. Questa definizione del peccato presuppone l'esistenza di una legge o un principio al quale rifarsi, perché senza una norma non può esserci trasgressione. Perciò è possibile commettere dei peccati senza saperlo, come è possibile trasgredire il codice stradale per ignoranza. Come posso io sapere se trasgredisco il codice stradale? In nessun altro modo, se non informandomi e studiando le leggi che regolano la viabilità. Così è del peccato. Come posso io conoscere quando commetto delle infrazioni alla legge di Dio? Nient'altro che informandomi per conoscere le leggi che Dio ha decretato. Dove posso trovare le leggi che Dio ha stabilito perché gli uomini le obbediscono? Esiste un solo libro a raccolta delle regole imposte da Dio per avvicinarsi a Lui e perché l'uomo possa vivere armoniosamente. È la Bibbia, non a caso definita la parola di Dio. Ecco dunque il valore che possiede la lettura della parola di Dio. Essa è in grado di far conoscere, meno a chi lo vuole, meno ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In altri termini, la parola di Dio illumina circa il peccato e la giustizia. Stando così le cose, comprendiamo che il peccato non è una opinione moralistica personale, perché altrimenti tutti quelli che la pensano diversamente da me in merito all'etica sbaglierebbero. Il peccato non è neppure trasgredire la morale comune, altrimenti se tutti dicono il falso affermando la verità, peccherei. Se prendiamo sul serio questo aspetto del peccato, comprendiamo come sia indispensabile e urgente predicare la parola di Dio, leggerla, studiarla e meditarla, perché la nostra naturale ignoranza in merito al peccato è veramente enorme. Nessuno di noi, ma proprio nessuno, nasce con il senso delle cose di Dio, con la coscienza di Dio, e senza una adeguata istruzione alla volontà di Dio si vive nel peccato, come, ignorando il codice stradale, lo si infrange. Ora, se per avere la patente si è costretti a studiare le norme del codice stradale e occorre imparare da un istruttore, come mai per vivere senza commettere degli errori non si studia il codice morale di Dio? Perché non si prendono sul serio le parole di Gesù, il quale, essendo colui che ha creato l'esistenza dell'umanità, è l'unico a sapere com'essa deve funzionare? Voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Matteo 23.8.10. Se nessuno nasce maestro, valutiamo seriamente la nostra ignoranza. Se oggi esistono ogni forma di ribellione, ogni forma di disubbidienza perché la parola di Dio non viene letta per ricevere una propria istruzione per condursi in modo degno davanti a Dio. Quando ho l'occasione di distribuire a migliaia di giovani il Nuovo Testamento gratuitamente davanti alle scuole, ho una fitta al cuore nel vedere come questi giovani trattano la parola di Dio. Alcuni la buttano nelle spazzature, altri nei prati, altri ancora la strappano. Poiché l'indifferenza alla lettura della parola di Dio nei giovani è massima, nel porgere il Nuovo Testamento li incoraggio ad accettarlo, e di fronte ad un loro eventuale rifiuto li incoraggio dicendo: prendilo, mal che vada ti fa del bene. Come possiamo sperare che la mente di questi giovani sia sana e corretta quando la parola di Dio viene trattata come spazzatura? Come possiamo pretendere dai giovani un comportamento positivo quando rigettano gli insegnamenti di Cristo? Dobbiamo riconoscere però che la responsabilità del comportamento dei giovani non è totalmente loro, perché spesso i ragazzi imitano gli adulti. Dove sono gli adulti che dedicano del tempo per leggere la parola di Dio allo scopo di lasciarsi trasformare da essa? Come possono dei genitori pretendere che il figlio sia più morale di loro? I miei nipotini meno, e non solo loro meno, di tanto in tanto mi colgono sul fatto mentre sto studiando la parola di Dio e li vedo un poco imbarazzati, perché è una scena inusuale per le abitudini di casa loro. Una cosa è certa, del loro nonno non ricorderanno tutto, ma certamente si ricorderanno che amava Cristo come suo Salvatore e la sua volontà così come è espressa nella parola di Dio. Molto probabilmente non lascerò una grande eredità ai miei nipoti, ma lascerò il ricordo di un nonno che ogni giorno, un'ora prima di recarsi al lavoro alle 7:30, leggeva la parola di Cristo e che, nel periodo della terza età, dedicava ad essa la maggior parte del tempo. Perché questo impegno nel leggere e studiare la parola di Dio? Per il semplice motivo che la lettura della parola di Dio produce innumerevoli benedizioni, tra le quali la convinzione di peccato. Noi uomini abbiamo bisogno di conoscere il peccato, ma altresì di esserne convinti, e questo può farlo solo la persona dello Spirito, quello santo, per mezzo della parola di Dio. Nessuno ha il diritto di lamentarsi perché non è convinto di sbagliare se non legge la parola di Dio, come nessuno ha il diritto di lamentarsi perché non si abbronza se non sta al sole. Leggiamo seriamente la parola di Dio ed essa ci mostrerà non solo il bene che dobbiamo fare, ma anche il male che dobbiamo evitare, cioè il peccato. 3. Salmo 119, 9. La lettura della parola di Dio conduce alla santità. Come potrà il giovane render pura la sua via, badando a essa mediante la tua parola? Non vi è desiderio di santità se non vi è coscienza di peccato o di sbagliare. Parlare della necessità di essere santi meno, cioè avere un comportamento corretto meno, non ha senso se chi ascolta non parte dal presupposto che sta sbagliando o non ammette la possibilità di poter sbagliare. Il grande difensore del cristianesimo C.S. Lewis aveva scritto in una rivista catechistica che l'ostacolo più grande che aveva incontrato era la quasi totale assenza delle menti dei suoi ascoltatori di qualsiasi senso di peccato. Esperienza, questa, che incontrano tutti quelli che predicano l'Evangelo. Il messaggio cristiano, continuava Lewis, era per i primi ascoltatori veramente un Vangelo, cioè una buona notizia, perché tutti erano consapevoli di avere delle colpe. Perciò, sempre secondo lo scrittore, noi dobbiamo convincere i nostri ascoltatori della non gradita diagnosi della loro malattia morale, prima di aspettarci che essi accolgano volentieri la notizia che ci è un rimedio. Infine, commenta sempre l'apologeta Lewis, con l'acume che lo ha sempre caratterizzato, l'uomo antico si avvicinava a Dio o agli dèi, come la persona accusata si avvicina al giudice. Per l'uomo moderno i ruoli si sono invertiti. L'uomo è il giudice, Dio è nel banco degli accusati. L'uomo è un giudice del tutto benevolo. Se Dio dovesse avere una ragionevole difesa per essere Dio che permette guerre, povertà e malattie, l'uomo è pronto ad ascoltarlo. Il processo potrebbe pure finire nell'assoluzione di Dio. Ma l'importante è che l'uomo è nel tribunale e Dio nel banco degli accusati. Quanto alla fornicazione, i contraccettivi hanno portato a dei cambiamenti profondi. Fintanto che questo peccato poteva rovinare socialmente una ragazza facendo di lei la madre di un bastardo, la maggior parte degli uomini riconosceva che c'era un peccato contro l'amore e le loro coscienze erano spesso turbate. Da ciò, ora che il peccato di fornicazione non porta a queste conseguenze, io penso, conclude lo scrittore, che esso generalmente non è più sentito come un peccato. Questa verità è molto lampante se siamo in grado di guardare attorno a noi, perché la consapevolezza del peccato è solo questione di un'etica passeggera, come una nuvola sospinta da un forte vento, anziché essere il risultato di una costante lettura della parola di Dio. Se il peccato per l'uomo è un fatto relativo e non il risultato di una disubbidienza alla legge di Dio, è normale che non vi sia il desiderio di santità. Perché devo migliorare o cambiare, se quello che è sbagliato oggi può essere giusto domani? Mirare alla santità è la normale aspirazione di un essere religioso. Qualsiasi sia la sua espressione di fede, il suo scopo finale sarà di non compiere atti o pronunciare parole che offendano la sua divinità. Se così non fosse, la realtà esistente per se stessa, completamente indipendente dalla nostra esistenza, l'assoluto, l'altro, l'inaccessibile, non sarebbe più assoluto, perché solo un essere assoluto può esigere doveri assoluti. La santità, cioè la perfezione, fa parte di questi assoluti. Anche la divinità degli ebrei e dei cristiani non esige niente di meno. Egli, quando condusse il popolo di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto, disse loro: «Poiché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo». Levitico 11 e 44. E l'apostolo Pietro ripeté a coloro che avevano posto la loro fede in Cristo: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta». 1 Pietro 1 e un quarto. Senza questa premessa, se il rapporto con la divinità non determina un cambiamento nella nostra esistenza, la santità rimane un semplice principio spirituale. Perciò ogni espressione religiosa è solo gioco ed inganno. È necessario leggere e predicare l'Evangelo perché i credenti con la loro santità frenino il peccato. Indiscutibilmente, il Vangelo ordina a coloro che hanno posto fede in Cristo di avere un cammino di santità. Essere santi non è solo un formale atteggiamento di un religioso che vuole piacere alla sua divinità, ma si tratta di un comportamento che produce un benessere nelle relazioni sociali, un benessere quale il non vendicarsi, il sopportare, l'essere onesti, leali, altruisti, fedeli e tante simili cose. Questi atteggiamenti sono la salute di una società, frenano l'inesorabile avanzare della delinquenza, dell'odio. La testimonianza della Scrittura non lascia dubbi. O sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. 1 Timoteo 3, 1 a 5. Coloro che odiano i cristiani e il Vangelo non si rendono conto del male che fanno a se stessi e alla società, lo dimostra il fatto che ovunque arriva il messaggio di Cristo le nazioni hanno un progresso non solo morale ma anche sociale. Mi tornano spesso in mente le parole scritte da un credente sulla Bibbia che offriva ad un giovane: «Questo libro ti allontanerà dal peccato e il peccato ti allontanerà da questo libro». Nulla è di più vero. Nei miei oltre 40 anni di vita cristiana, ho notato che chi non abbandona evidenti peccati non può leggere la parola di Dio e che i credenti, i quali all'improvviso abbandonano la vita comunitaria, hanno sempre qualcosa di non gradito a Dio da nascondere. Se crediamo che la luce e le tenebre non vanno d'accordo, allora dobbiamo pure credere che la santità e l'ingiustizia non possono coesistere. Perciò chi ha un minimo di coscienza ancora intatta troverà il conflitto tra lo spirito di Dio e lo spirito del mondo tanto insopportabile da decidere alla fine o per uno o per l'altro. Pochi sono consapevoli del conflitto tra la santità e l'ingiustizia, come pochi sono consapevoli che un cuore non rigenerato o sedotto dal peccato impedisce non solo di camminare nella verità, ma anche di leggere la parola di Dio. Abbiamo detto che la lettura della parola di Cristo conduce alla santità, perciò questa lettura quotidiana e fruttuosa la può fare solo chi è già stato conquistato dallo spirito di santità. Non sei attratto dalla lettura e meditazione della parola di Dio? Rifletti sulla tua vita. Ho conosciuto un uomo attivo nell'opera di Cristo che per un atto di debolezza commise un adulterio egli mi confessava di non riuscire a leggere la parola di Dio, perché ogni volta che la leggeva, ogni parola sembrava mettere in rilievo il suo peccato. Così alla fine decise di smettere. Aveva risolto momentaneamente il suo problema, ma non avendolo eliminato, confessando il suo peccato davanti al Dio Trino e accettando il perdono già offerto da Dio, in Cristo, in seguito abbandonò la comunione fraterna. Ancora oggi, a distanza di molti anni, non ha più contatti con altri credenti e, molto probabilmente, continua a non leggere la parola di Dio. La mia conclusione potrebbe anche essere ritenuta pessimistica, ma se la lettura della parola di Dio produce la santità, va da sé che chi non ha una coscienza a posto si senta continuamente turbato. Ora, nessuno può resistere ad una continua pressione dello Spirito, quello santo, perché essa produrrebbe in lui la solida base di una incrollabile disperazione. Siamo tutti troppo propensi a prendere alla leggera le cose di Dio, ma se non si scherza nelle cose serie umane, quanto più non è possibile giocare con le cose divine. L'apostolo Giuda non resse al peso di aver tradito Gesù e, piuttosto di vivere con una continua e accigliata concentrazione su quello che aveva fatto, si impiccò. La lettura della parola di Dio produce la santità e la vita, trascurandola, si va incontro all'inganno e alla morte. A noi non resta che scegliere. 4. 1 Giovanni 2,14 La lettura della parola di Dio dona forza. Per vivere bene e saggiamente ci vuole della forza, molta forza. Lo dimostra il fatto che un terzo di italiani si curano con psicofarmaci. Lo dimostrano tutti coloro che sono depressi, scoraggiati, senza sapere dove trovare il coraggio per andare avanti con dignità. Come dice la parola di Dio molto realisticamente, i giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, lo dichiara apertamente il fatto che migliaia di giovani con una vita insulsa trovano la soluzione nell'atto estremo della morte. E tutto questo non succede a caso. I giovani di oggi compongono compagnie cattive, viziose e distruttive. Sono ragazzi amorfi, la cui anima è morta, sebbene il corpo sia vivo. Sono giovani che hanno conversazioni banali, che chiacchierano anziché parlare, che sentono anziché udire, che guardano ma non vedono, che hanno sempre qualcosa da dire anziché avere da dire qualcosa, che camminano in questo mondo ma non vanno da nessuna parte, che distruggono senza costruire, che vivono come telecomandati da un programma loro sconosciuto, che sono come denti impersonali in una ruota in perenne movimento, che seguono la via della convenienza anziché quella della morale, che sono isole di egoismo, amanti del piacere anziché di Dio. Ma siano rese grazie a Dio, perché la Scrittura non si limita a prendere atto che i giovani si affaticano, si stancano, vacillano e cadono, perché continua col dire: ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Isaia 40.30-31. In effetti, tra i giovani ve ne sono alcuni che hanno avuto una reale esperienza con Cristo Gesù, lo hanno riconosciuto come il loro Salvatore dalla perdizione eterna e da una vita senza significato, e si sono consacrati a donare il tempo che resta loro da vivere, a testimoniare che Gesù è l'unico Salvatore e padrone. Chi realizza la nuova nascita mediante una fede personale in Cristo, nella sua vita esige che la verità venga tradotta in azione e che l'amore sia espresso nell'ubbidienza. Egli rifiuta una vita caratterizzata da un'alta pressione di parole e da un'anemia di fatti. Chi si consacra a Cristo sviluppa le sue facoltà e le esercita a discernere il bene e il male, perché è cosciente che una facoltà non esercitata non cresce. Con una simile condotta e simili obiettivi, il credente trova giornalmente nuove forze e nuove ragioni al punto da desiderare, se fosse possibile, di avere un'altra vita per servire Cristo. La noia non esiste per un cristiano consacrato. Tra le tante testimonianze date dai credenti dell'Antico Testamento, ve ne è una che particolarmente mi è a cuore. La si trova nel Salmo 94, beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, e che istruisci con la tua legge per dargli riposo nei giorni dell'avversità. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. 94.1219. Le avversità nella vita sono una costante, e con l'andar del tempo, anche i più forti ne escono snervati. Ma gli insegnamenti che si traggano dalla parola di Dio possono dare la forza necessaria per trasformare un deserto in un giardino annaffiato. Non si tratta di opinioni religiose, neppure di un conforto fugace, perché la parola di Dio si riferisce alle cose pratiche più di quanto non si pensi. Una persona aveva deciso di togliersi la vita con un colpo di pistola e, perché il rumore non si sentisse, accese la radio. Proprio in quel momento la radio trasmetteva il messaggio di un figlio di Dio che parlava di perdono, di pace e di vita nuova in Cristo. La persona fu colpita da quelle parole, decise di ascoltare, si arrese al messaggio del Vangelo, ricevette la persona dello Spirito Santo e con questa la visione di una nuova vita e una nuova forza. E non si tratta di un caso isolato, perché milioni e milioni di persone hanno trovato in Cristo una nuova visione della vita. Ho ancora presente Gianna, una donna affetta da tumore che aveva deciso lasciarsi andare e terminare la sua esistenza. Benché priva di fede, senza saperlo, mise in pratica i principi di Dio, tra i quali non chiudersi in se stessa, ma interessarsi anche degli altri. Così, anche se Gianna aveva tutti i diritti di vedere il lato negativo della situazione perché, in fondo, un tumore è un tumore, ad un tratto si è resa conto di non essere un'isola, che la sua vita era strettamente legata ad un'altra persona, il quale inevitabilmente era coinvolto nella bufera del dolore che lei stava vivendo. Con amore si è interessata più a suo marito che al dolore che provava. E, uscita dal suo egocentrismo e dall'autocommiserazione per interessarsi a chi le voleva bene. I principi di Dio contenuti nella sua parola vantano delle motivazioni che la ragione non ti può dare. Producono nuove forze, che le tue forze non possono darti. Essere deboli pur avendo a disposizione la forza di Dio è un vero crimine. Se Gesù ci avesse dato l'ordine di leggere la parola di Dio senza contemporaneamente darci anche la capacità di praticarla, sarebbe un mentitore. Se noi rifiutiamo di ubbidire col pretesto di incapacità, stiamo dicendo a Dio che non ha preso in considerazione tutto ciò che il suo ordine comporta. La lettura della parola di Dio produce una forza in chi la medita per obbedirla, che nessuno può pensare. Come il cibo che noi ingeriamo produce energia e salute, senza che noi non ce ne avvediamo, così la lettura della parola di Dio produce un benessere e una forza, della quale non ne siamo coscienti. Il salmista diede la seguente testimonianza: «Se la tua legge non fosse stata il mio diletto, sarei già perito nella mia afflizione. Non dimenticherò mai i tuoi comandamenti, perché per mezzo di essi tu mi hai dato la vita». Salmo 119.9.293. Oh, se la gente fosse in grado di capire il valore della parola di Dio. Essa ha una potenza unica, capace di compiere cose veramente straordinarie. Ho letto l'avvincente testimonianza di un omosessuale che, benché predicasse la parola di Dio, continuava in tale pratica. Dopo molte vicissitudini ne fu liberato. Sapete come? Imparando a memoria interi capitoli della Bibbia. Noi possiamo imparare a memoria interi capitoli della Divina Commedia, dei Promessi Sposi o di qualsiasi altra opera letteraria senza che questo produca in noi un cambiamento. La parola di Dio ha il potere di cambiare la nostra mente e di conseguenza il nostro atteggiamento verso la vita. Ho realizzato quante siano valide le promesse di Dio una sera particolare della mia vita. Mi sono svegliato di soprassalto e percepivo intorno a me una presenza oscura, maligna. Avevo nella mia mente la figura di un leone che volesse divorarmi. Ero assalito dal terrore. Capivo che non avevo via di scampo, anche se con tutta la mia forza cercavo di cacciare via i pensieri negativi. Intrappolato com'ero, comincio a ringraziare ripetutamente Dio perché ero un suo figlio. Prima con la mente, ma poiché non ottenevo nessun risultato, comincio a lodarlo e ringraziarlo a voce alta. Lo ringraziai una, due, tre, non so quante volte, ma man mano che lodavo Dio perché gli appartenevo, avvertivo che questa presenza se ne andava. Pochi minuti dopo, ripresi a dormire. Il valore della lettura della parola di Dio è inestimabile, e lo possono testimoniare tutti coloro che trovano piacere nel leggerla con tutto il loro cuore, con un cuore puro. Dio dona a chi lo ama non uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. 2 Timoteo 1.7. Dio ci ha fornito tramite Cristo tutto ciò che ci è necessario. A noi sta accettare tale dono. 5. Salmo 119, 97-100. La lettura della parola di Dio dona saggezza. Dobbiamo riconoscere che la saggezza è una virtù molto rara, perché è inesistente negli animali. Corrotta nelle inclinazioni naturali dell'uomo, quasi introvabile nelle relazioni umane. La saggezza è inesistente negli animali, perché essi agiscono per istinto. Infatti, abitudini mirabili e complesse, come le migrazioni, danze nuziali, costruzioni di dimore e nidi complicati da parte di insetti e di uccelli, sono prodotte unicamente dall'istinto. Altrimenti, se definiamo saggio un animale perché compie cose straordinarie, dobbiamo anche ritenere un computer intelligente, dato che la memoria e la velocità di un computer sono molto superiori alle capacità umane. Se il computer è intelligente, lo è anche l'automobile perché raggiunge i 300 km all'ora, cosa che l'uomo non può fare con le proprie capacità. Perciò, quando parliamo di saggezza, ci riferiamo ad un comportamento virtuoso che ha in sé altre virtù, quali la conoscenza, il discernimento, l'accortezza, l'equità e non ultimo l'amore. Proprio perché la saggezza è così complessa e formata da tante altre virtù, essa non si trova allo stato puro nella natura dell'uomo e, non trovando visi, non si trova neppure nelle relazioni umane. Questa diagnosi non porta l'essere umano ad essere per forza di cose sempre ignorante, scontroso, sempre in lite con tutti. Ma, tolte via quelle qualità umane necessarie per una convivenza fraterna, l'uomo rimane sempre carente di saggezza. In effetti prendiamo come esempio grandi personalità di spettacolo e di cultura, le quali con le loro capacità riescono ad ammaliare milioni e milioni di persone, suscitando in tanti dei loro ammiratori il desiderio di possedere le loro virtù. Vi sono scrittori che per il loro acume suscitano in me una certa invidia. Ma quando in seguito esamino il comportamento di alcuni di loro mi rendo conto che mancano di saggezza. Un cantante lirico che riesce con la sua meravigliosa voce a incantare tutto il mondo e poi divorzia da sua moglie solo per avere una relazione sentimentale con la segretaria, non è un uomo saggio. Come non è saggezza per un calciatore di fama mondiale dalla carriera strepitosa a diventare schiavo della droga. Se un uomo soccombe sotto il dolore viene anche compreso, ma quando uomini e donne dotate di virtù invidiabili diventano schiavi del piacere o delle comodità, allora mancano di quelle virtù che formano la saggezza. Scambiare per saggezza le virtù ricevute dalla nascita è un grosso errore che si paga caro, soprattutto perché non si ricerca di migliorare. Proprio perché la saggezza è così rara, occorre cercarla e ricercarla nel luogo giusto. Ovviamente in campo religioso, ognuno la cerca nella propria confessione e non vi è nulla di anormale se i cristiani cercano la saggezza nella persona di Cristo Gesù, ma qualcosa di unico e di anomalo c'è. L'unicità dei cristiani nel ricercare la saggezza nella loro fede non consiste nella modalità seguita, ma nella persona nella quale è riposta la loro fede. Gesù ha detto di essere la via, la verità e la vita, elementi questi che compongono la saggezza, perché essa per essere tale deve muoversi nella giusta direzione, nella verità, e deve produrre del benessere. Chi, allora, come Cristo, può produrre la saggezza? Cos'altro può dare la saggezza se non le sue parole? Ecco perché il credente può dire con il salmista: «Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho maggiore intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Ho maggior saggezza dei vecchi, perché osservo i tuoi comandamenti». Se si legge la parola di Cristo, non è per bigottismo, non è neppure un dovere religioso irrinunciabile, ma la parola di Cristo sì. Medita tutto il giorno perché si desidera riceve saggezza per sapere come comportarsi prima di tutto verso Dio e poi con il prossimo. Se la lettura della parola di Cristo produce saggezza, come mai se ne trascura la meditazione? Ho lavorato per 37 anni come dipendente e nel lavoro mi sono mostrato sempre come uno dei migliori operai per serietà, dedizione e spesso anche per capacità. Sovente i lavori più impegnativi e meno piacevoli erano miei, perché non mi sono mai lamentato del lavoro che mi veniva dato. Eppure, la mia mente molte volte era occupata da ciò che sta scritto nella parola di Dio. Vi erano giorni che era completamente assorbita dal lavoro, questo specialmente quando il compito era nuovo. Ma quando certe operazioni erano ormai note e automatiche, la mia mente poteva anche permettersi di pensare ad altro, così ne approfittavo per meditare sulla parola di Dio. Devo confessare che molte delle più belle riflessioni in merito alla parola di Dio erano suscitate mentre lavoravo e la mia saggezza, cioè quel comportamento giusto composto di tante virtù, aumentava ogni giorno. Di tante cose oggi potrei anche pentirmi, ma non sono pentito e non mi pentirò mai di aver meditato in ogni momento la parola di Dio. Ci è un proverbio in merito alla saggezza che fa pensare: chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina saggiamente sarà salvato. 28.26. Il proverbio mette in evidenza ciò che abbiamo considerato, e cioè che la saggezza non fa parte della natura dell'uomo. In effetti, chi confida nel proprio cuore, cioè nelle proprie opinioni o convinzioni, è definito dalla parola di Dio uno stolto. Mentre chi non cammina secondo i propri parametri morali, ma secondo la saggezza proposta da Dio sarà salvato, cioè realizzerà di non essere schiavo del peccato e del mondo, e alla fine entrerà nella beatitudine eterna. Pochi hanno compreso che la salvezza del presente non è un'esperienza statica, ma dinamica. La salvezza del presente riposa su quella passata realizzata mediante la nuova nascita. Perciò se non vi è una salvezza passata non esiste una salvezza presente, e se non vi è la salvezza del presente mediante la vittoria sul peccato o una vita di santificazione, occorre mettere fortemente in dubbio la salvezza passata. La salvezza del presente è una salvezza quotidiana, descritta nella parola di Dio in vari modi. Essa viene espressa come essere nel regno di Dio e del suo amato Figlio, Colossesi 1:13. Come vivere nella grazia di Dio, Romani 5:1, come vivere in novità di vita, Romani 6:4. La lettura della parola di Dio produce un totale abbandono della propria volontà a quella di Cristo, così come è espressa nella sua parola e la messa in pratica di quest'ultima mediante la potenza dello Spirito Santo. Vivere per lo Spirito Santo significa compiere la volontà di Dio senza cadere nel legalismo, significa ubbidire allo Spirito per il quale la legge è stata data e non fermarsi al significato letterale di questa, che uccide. La salvezza alla quale si riferisce la Scrittura è proprio la possibilità di vivere senza essere condizionati dalla corruzione del peccato, per poter vivere nella libertà dei figli di Dio. Questa è la saggezza che produce la lettura della parola di Dio. Saggezza che non è compresa se non da chi ha consacrato completamente la sua vita a Cristo, costi quello che costi. Una volta acquisita questa saggezza, occorre mantenerla. Per questo troviamo scritto nella parola di Cristo: chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli stolti diventerà malvagio. Proverbi 13:20. Ecco l'importanza di convivere con coloro che sono diventati figli di Dio mediante un atto di fede. Il credente non può conoscere tutto, essere saggio in tutto, ma frequentando coloro che hanno acquisito la vera saggezza, mediante la lettura della parola di Dio, acquisterà a sua volta quella saggezza che gli manca. La vera saggezza è ricercare la saggezza. Chi ha compreso queste cose? 6. Salmo 1, 1 a 5. La lettura della parola di Dio rende fruttuosa la vita del credente. Così inizia il primo salmo che troviamo nella parola di Cristo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Dobbiamo riconoscere che nessun libro della Bibbia è popolare come il libro dei Salmi, o chiamato anche Salterio. Esso formava l'innario del popolo ebraico. Infatti i 4.000 musicisti stabiliti da Davide intonavano i salmi nel Tempio di Salomone, sotto l'esperta direzione di Asaf, di Heman e di Jeduthun, fecero di questo libro la raccolta dei loro inni per il Secondo Tempio. Per questo i salmi sono un tesoro di preghiere e di confessioni per l'adorazione in pubblico ed in privato. La composizione del libro dei Salmi abbraccia 700 anni e, per questo, forniscono elementi utili per comprendere come Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani meno, era adorato, trovandosi in essi espressioni culturali di dottrina. Gli autori dei Salmi sono Mosè, 90, Davide, in tutto 73. Salomone, 72, 127, Asaf, in tutto 12, figli di Cor, in tutto 11, Heman, l'Ezraita, 88, Etan, l'Ezraita, 89. Altro aspetto interessante del libro dei Salmi è che su 283 passi del Nuovo Testamento che citano l'Antico Testamento, 116 sono tratti dai Salmi. Questo significa che sono quasi la metà del totale. Inoltre, dopo il libro di Isaia, quello dei Salmi è il libro dell'Antico Testamento più spesso citato nel Nuovo Testamento, richiamato da Gesù, dagli Apostoli e dai primi cristiani. I Salmi sostennero i primi martiri, che suggellarono col sangue la testimonianza della loro fede, e ebbero un posto importante nel servizio religioso delle chiese cristiane. Questi particolari in merito ai Salmi non sono da considerare come una pura curiosità, ma servono per farci comprendere quanto sia importante ciò che è scritto anche nel primo libro dei Salmi, come sia importante farne tesoro, come sia importante credere che la lettura della parola di Dio produca una vita fruttuosa. Non tutti hanno una vita fruttuosa. Molto probabilmente l'espressione vita fruttuosa fa direttamente pensare a chi ha fatto cose grandi come grattacieli o strepitose invenzioni, oppure a chi ha ottenuto grandi successi nello sport, nel cinema o in politica. Ma non è di questo che parla la scrittura. Prendiamo un esempio dal libro dei Proverbi. Chi è lento all'ira val più di un forte guerriero, e chi domina il suo spirito vale più di chi espugna una città. 16.32. Da sempre gli uomini si sono misurati con la forza e con le conquiste. Per quanto non si voglia accettare, come nel regno animale, chi è il più forte è rispettato, così anche nell'ambito umano chi ha più poteri, sia di denaro sia di autorevolezza, si impone sugli altri. Questo è evidente dove vige il potere dittatoriale, ma anche nelle società democratiche esistono piccoli dittatori che gestiscono l'andamento delle cose. Queste persone sono spesso addotte come esempi di grande capacità e la loro vita viene considerata feconda e produttiva, mentre il semplice contadino che per tutta la sua esistenza non fa altro che coltivare la sua terra sembra non aver prodotto proprio un bel niente. I nostri metodi per verificare una vita fruttuosa sono condizionati dalla quantità. Così più produco, più sono fruttuoso. Questa è la mentalità e la legge della nostra società industrializzata. L'uomo vale per quello che produce e non per quello che è. Questo l'ho notato in modo particolare nei miei 37 anni di lavoro come dipendente, dove l'operaio che produceva di più valeva di più. Se si vuole essere obiettivi, questo è anche giusto, perché il rapporto tra datore di lavoro e dipendente è basato sulla produzione. Più produco, maggiore è il mio diritto a una paga più alta. Questo nessuno lo può negare. Ma per considerare l'uomo fruttuoso in senso generale, senza un rapporto di produttività si è costretti a valutare altre qualità. E per questo che la parola di Dio considera che chi si domina, chi si controlla, chi domina le proprie inclinazioni sbagliate è più forte di chi compie le più grandi imprese. Ed è anche per questo che nel primo salmo sta scritto che è beato, cioè felice, l'uomo che ha una condotta giusta e santa. La scrittura non chiama beato chi produce molto e compie grandi gesta, ma la persona felice è quella che fa cose non comuni a tutti, cioè essere in grado di non farsi condizionare dal male circostante e di vivere secondo la morale di Dio. Che sia difficile se non impossibile evitare l'ingiustizia, la corruzione e la falsità lo dimostra il fatto che uomini che compiono grandi azioni di ogni genere sono vittime dei loro stessi difetti di carattere o delle loro stesse passioni. Come si può non essere sedotti da malvagie compagnie e vincere cattive inclinazioni? Meditando la parola di Dio, riponendola nel cuore con il desiderio di metterla in pratica, chi ha questo atteggiamento nel momento più brutto della sua vita, quando tutto va storto, quanto umanamente parlando, si è tentati di gettare la spugna proprio in quel momento, poiché formato dalla costante lettura della parola di Dio, sarà mosso da un santo desiderio di portare frutto, oltre a essere addirittura in grado anche di aiutare gli altri. Conosco una credente affetta di una malattia che la rende dipendente dagli altri, la quale nel giorno del funerale di suo marito, anziché dimostrare costernazione non solo per il lutto subito, ma anche per il futuro che si presentava piuttosto incerto, sulle labbra aveva un certo sorriso. Quando le espressi il mio sconcerto alla vista del suo sorriso, mi rispose di non sapersi spiegare neppure lei il suo atteggiamento, ma l'essere cosciente che suo marito era ora alla presenza di Dio le infondeva un sentimento di pace nel presente e per il futuro, tale da provocare in lei una gioia inesprimibile. Da un lato avrebbe voluto piangere per soddisfare l'opinione comune, ma non vi riusciva, perché la gioia che provava era più forte del suo dispiacere. Questo è solo uno dei tanti casi nei quali coloro che hanno posto fede in Cristo sono in grado di produrre dei risultati non di certo attribuibili all'umano. I frutti dei cristiani non sono appariscenti come quelli degli increduli, anche perché essi non hanno bisogno di farsi notare, essendo il loro sguardo fisso alla ricompensa che proviene da Dio. Quando un cristiano è gioioso, in pace, quando ha pazienza, gentilezza, quando ha fede, è mansueto e si autocontrolla, il più delle volte non viene notato. E se lo è, gli increduli ne attribuiscono il comportamento al carattere. Non vi è nulla di più falso. Nessuno è in grado di realizzare le virtù cristiane con la propria capacità, perché ciò che è naturale non può adempiere ciò che è spirituale. Sta scritto nella parola di Dio che la capacità di condursi secondo la volontà di Cristo proviene unicamente dallo Spirito Santo e che tutto ciò che è sbagliato deriva solo dalla nostra natura umana corrotta. La lettura della parola di Dio insegna al credente come deve comportarsi e produce in lui quella vita capace di vincere il male e l'ingiustizia, quei frutti che sono valevoli per l'eternità. Non vi è vita fruttuosa più di quella di un vero cristiano, poiché essa è il risultato della sua costante lettura della parola di Dio. Non è una mia opinione, ma la testimonianza di chi vive da cristiano. 7. Giovanni 15 e 17. La lettura della parola di Dio rende efficace la preghiera. La preghiera è la normale esperienza di ogni persona religiosa. Ma non è sufficiente pregare perché, facendolo, ci si può rivolgere ad una divinità che non esiste, come ci si può rivolgere alla vera divinità in un modo da non essere esauditi. La parola di Dio ci ricorda che molte popolazioni millenni di anni fa si rivolgevano a varie divinità delle quali oggi conosciamo benissimo l'inesistenza. Eppure milioni e milioni di persone erano convinte di rivolgersi ad una divinità, capace di esaudirle. Qualche volta erano anche convinti di avere ricevuto l'esaudimento. È facile oggi criticarne l'ignoranza o la buona fede solo perché noi ragioniamo con il senno di poi, ma quante persone anche oggi si rivolgono a delle divinità o a dei santi che sono inesistenti? Prendiamo come esempio una divinità inesistente al tempo del profeta Geremia, e cioè circa 600 anni prima di Cristo. Il popolo di Israele aveva abbandonato la fede in Yahweh, il loro Dio, per rivolgersi in preghiera ad una divinità chiamata la Regina del Cielo, Geremia 7.18, 4.17-19, 44.25, la quale è citata dal profeta almeno 5 volte. Geremia dichiara al popolo l'erroneità di tali culti, ma il popolo dopo aver ascoltato rispose: «Quanto alla parola che ci hai detto nel nome dell'Eterno, non ti ascolteremo, ma intendiamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, bruciando incenso alla Regina del Cielo e versando le libazioni come abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri re e i nostri principi nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, perché allora avevamo pane in abbondanza, stavamo bene e non vedevamo alcuna sventura. Da quando però abbiamo cessato di bruciare incenso alla Regina del Cielo e versare le libazioni ci è venuto a mancare ogni cosa. E siamo stati consumati dalla spada e dalla fame». Le donne aggiunsero: «Quando bruciamo incenso alla Regina del Cielo e le versiamo libazioni, è forse senza il consenso dei nostri mariti che le facciamo focacce con la sua immagine e le versiamo libazioni?» Geremia 44.17-19. La risposta del popolo potrebbe anche lasciare scioccati, ma se vogliamo essere obiettivi, dopo millenni anche nella religione ufficiale che vanta di possedere la verità, la situazione è sempre la stessa. Cambieranno nomi e particolari, ma il risultato è sempre lo stesso: chi ascolta la verità l'accetta in parte, ma continua a vivere come prima da idolata. Paragonare la religione degli ebrei contemporanei di Geremia al movimento del cattolicesimo romano mette in luce una somiglianza impressionante. Lo hanno fatto i nostri padri, versetto 17. Gli ebrei conoscevano il vero Dio, come oggi il cattolicesimo predica il vero Dio, ma essi erano ancorati anche alla tradizione di offrire un culto alla Regina del Cielo Ishtar, la dea dell'amore e della fertilità, proprio come il cattolicesimo offre per costume un culto alla Cambiano i nomi, ma la divinità femminile rimane. I nostri re, versetto 17. Gli ebrei ritenevano lecito il loro culto perché si rifacevano alle proprie autorità. Come i cattolici ritengono lecito davanti all'unico vero Dio tutto ciò che la loro autorità stabilisce. Siamo in gran numero, versetto 15. Gli ebrei si sentivano approvati solo perché erano in molti a offrire un culto alla Regina del Cielo, come i cattolici pensano di essere nella verità solo perché sono molti. Nelle città di Giuda, versetto 17. Gli ebrei erano convinti di fare bene solo perché in tutte le città di Giuda avevamo abbondanza, versetto 17. Gli ebrei vivevano nella prosperità e ne attribuivano l'onore alla Regina del Cielo, come oggi i cattolici attribuiscono molte benedizioni ai santi e a Maria. Ma il culto degli ebrei, nonostante tutte le ragioni da loro addotte, era ritenuto una cosa stupida e ripugnante dalla loro divinità, cioè da Cristo, come oggi per certo i culti del cattolicesimo romano, esaminati alla luce della parola di Dio, risultano stupidi e ripugnanti per Cristo. Gesù disse al diavolo che lo stava tentando: «Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai culto». Matteo 4.10. Queste parole sono rivolte sia agli ebrei, sia ai cattolici, sia a tutte le persone che invocano il nome di Cristo. Per tutti quelli che rendono un culto a Maria o ad altra persona o divinità, valgono le parole dette dal profeta Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Matteo 7.7. Chi ascolta la parola di Cristo deve prendere sul serio ciò che Lui ha dichiarato, altrimenti non rimane che il giudizio espresso da Dio circa il popolo di Israele. Mi rendo conto di quanto sia difficile cambiare un'opinione millenaria e quanto sia ancora più difficile mettere in discussione la propria fede. Inoltre sono cosciente che, come per gli israeliti, era assurda l'asserzione di Geremia. Così possono sembrare assurde queste riflessioni. Eppure, occorre riflettere seriamente perché perseverare nell'errore e nella stupidità è il destino delle menti ristrette. Sembra che queste considerazioni abbiano dimenticato lo scopo del nostro argomento, cioè che la lettura della parola di Dio rende efficace la preghiera, ma siamo più che mai in pieno tema perché se le nostre preghiere non sono conformi al volere di Dio, a nulla meno, ma proprio a nulla meno, servono. Gesù disse in merito alla preghiera: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto». Giovanni 15.7. Gesù ha promesso di esaudire ogni preghiera, qualora questa sia conforme al suo volere, poiché il volere di Cristo lo si può conoscere solo nella parola di Dio. È inevitabile, indiscutibile, che essa debba essere letta, compresa e meditata. Perciò l'accorato invito a leggere la parola di Dio non è una fissazione dei protestanti che vogliono contrastare la chiusura del cattolicesimo romano alla lettura delle scritture, anche perché, se questo era vero qualche decennio di anni fa, ora le cose non sono più così. La parola di Dio ora è letta molto di più di quanto non lo fosse all'epoca della mia gioventù, e questo è certamente una cosa buona. Purtroppo il credente cattolico deve interpretare la scrittura concordemente alle dottrine stabilite dalla sua religione, non essendogli permesso di stabilire verità che non siano già state approvate dal Papa e dai Vescovi. Com'è possibile allora l'efficacia della preghiera di un credente cattolico romano o di un protestante che non accetta l'autorità delle scritture? Se un cattolico romano prega Maria e i santi, quando la scrittura afferma categoricamente che vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, se un protestante ritiene gli eventi storici biblici allegorie, quando Gesù e gli apostoli li hanno ritenuti veramente accaduti, come può essere esaudito quando prega? Certo, a volte nello svolgersi casuale delle circostanze potranno vedere un esaudimento alle loro preghiere, ma anche gli ebrei che pregavano la Regina del Cielo credevano di essere esauditi nelle loro preghiere. Che differenza passa tra la preghiera esaudita di un pagano e quella di un cristiano? Si dimentica forse che anche il diavolo è in grado di esaudire ciò che si chiede? Non ha forse il diavolo offerto a Gesù tutti i regni del mondo e la loro gloria se questo lo avesse adorato? Quando il popolo di Israele chiese un re, anche se questo non era la volontà di Dio, fu esaudito dall'Eterno? Ma quanto fu caro a Israele il prezzo di questa concessione? Perché dobbiamo attribuire sempre l'esaudimento di una preghiera al volere di Dio? Alla luce di queste domande diventa più che mai indispensabile e urgente la lettura della parola di Dio per pregare nel modo giusto ed efficace. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di uomini che sappiano pregare ottenendo dei risultati e capacità, che scaturirà solo dalla lettura della parola di Dio. 8. 2 Timoteo 3.1-6.17. La lettura della parola di Dio rende idonei al servizio di Dio. Questo episodio mostra quello che produce la lettura della parola di Dio e ci fa maggiormente comprendere quanto sia importante avere un rapporto con Cristo per mezzo della sua parola. Una donna si era sposata con una persona benestante, ma dopo una quindicina di anni sopraggiunsero difficoltà economiche e di conseguenza fallimento e disoccupazione. Per quella da noi oggi chiamata incompatibilità di carattere, in seguito i due si divorziarono. Nella triste circostanza, la sola consolazione di questa donna era la figlia nata dopo pochi anni di matrimonio, che era da lei educata con amore geloso ed esclusivo. La bambina fu invitata da una parente, che aveva avuto compassione della sua miseria materiale e morale, a trascorrere qualche giorno in montagna. Ma un giorno, giocando con i compagni in riva al torrente, mise un piede in fallo e scomparve in un vortice creatosi nell'acqua. Alla notizia della morte di sua figlia, la donna fu preda di una disperazione che nulla poteva calmare. Andava su e giù per la camera senza capire niente, Si avvoltolava nel letto, si gettava per terra, gridava, imprecava, si percuoteva. A chi cercava di consolarla, rispondeva duramente, e a chi aveva il coraggio di parlargli in modo religioso, manifestava tutta la sua ribellione contro Dio che aveva permesso una tale sciagura. Questa donna aveva un parente che da qualche tempo aveva avuto una reale esperienza con Cristo, il quale con forza d'animo iniziò a parlarle del messaggio del Vangelo. I primi giorni il credente dovette cozzare contro l'ostilità aggressiva di questa donna, ma in seguito, a forza di amore e pazienza, il credente poté guadagnarne la fiducia. In seguito poterono anche pregare insieme, e questa donna comprese che una totale consacrazione della sua vita a Dio era la sola risposta possibile al suo dolore e al vuoto del suo cuore. La lettura della parola di Dio produsse in lei la convinzione di peccato, si rese conto di quanto fosse stata amata da Dio, ella accettò il perdono di tutti i suoi peccati, compresa la ribellione per la morte di sua figlia, e trovò, oltre il perdono, anche la gioia di vivere in modo idoneo per Cristo. La parola di Cristo è in grado di compiere quello che nessuno può compiere, rendendoci idonei al servizio di Dio. Molte persone sostengono di servire il Dio trino delle Scritture, ma sembra che la cosa non sia poi così scontata. Una cosa è sostenere un'opinione con convinzione, altra cosa è che la propria opinione corrisponda alla realtà. Chi è a favore dell'ecumenismo pensa che tutte le religioni alla fine tendano a servire un Dio unico, ma l'unico Dio trino delle Scritture non è il Dio unico delle religioni. La divinità degli ebrei non è certamente il Dio dei musulmani, come il Dio dei musulmani non è certamente la divinità dei cristiani. Perciò non è vero che serviamo tutti lo stesso Dio, com'è. Non è vero che tutti servano il Dio trino delle Scritture in modo adeguato e siano idonei al regno di Dio. L'apostolo Paolo era estremamente zelante nel servire il Dio dei suoi padri, ma nonostante lo facesse secondo coscienza e nel migliore dei modi non lo serviva nel modo giusto e non era adatto a servire Cristo. Anche l'apostolo Pietro era convinto di essere adatto a seguire Cristo, ma Gesù gli disse che avrebbe pregato per lui perché non perdesse la fede e che solo dopo la sua conversione avrebbe aiutato i fratelli. Luca 22.32. Ci sono anche altre categorie di persone non idonee a servire il regno di Dio, che furono messe in evidenza da Gesù. Ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Signore, io ti seguirò dovunque andrai». Ma Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Poi disse ad un altro: «Seguimi». Ma quello rispose: «Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». Ancora un altro gli disse: «Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia». Gesù gli disse: «Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Luca 9.5-7-62. In questo episodio si parla di tre uomini che hanno il desiderio di seguire Gesù, cioè di lavorare per il regno di Dio, le quali non erano adatte per questo compito a causa di qualche ostacolo. Questo insegna che non è sufficiente una sincera spontaneità o un forte ardore per essere adeguati a servire nel regno di Dio, come non lo è la sola buona volontà per svolgere un qualsiasi lavoro, quindi occorre eliminare l'impedimento. Il primo uomo era molto frettoloso e non aveva riflettuto bene sull'eventuale prospettarsi di alcuni rischi, per questo non era adatto a servire nel regno di Dio. In effetti Dio ha bisogno sì di persone e di persone volenterose, ma un zelo senza la consapevolezza del rischio e della perdita per Dio è controproducente, perché una volta messo mano all'aratro è molto probabile che ci siano dei ripensamenti. Ho presente una coppia di sposi che avevano accettato l'Evangelo e testimoniava della propria fede con ardore. Tutto andava bene fino al giorno in cui sono stati colpiti nella loro reputazione e, impreparati a questo evento, hanno abbandonato la fede professata per ritornare alla vita religiosa e vuota di prima. Chi vuole seguire Gesù deve rendersi conto che, come accadde a lui, il più delle volte si troverà controcorrente, dovendo lottare contro il formalismo religioso, e questo non è possibile se non si è preparati a tutto. Non è possibile andare controcorrente se non si ha la vita di Cristo, come non è possibile per un pesce morto andare controcorrente, così come non è possibile resistere all'opinione pubblica se non si hanno delle certezze basate sulla parola di Dio. Troppa fretta rende inadatti a servire nel regno di Dio. Il secondo uomo era legato ancora alle faccende della vita. Alla chiamata al servizio rivoltagli da Gesù, l'uomo avanzò la ragione scusa di doversi occupare del padre morto. Una ragione più che valida, ma anche le necessità più lecite della vita devono trovare il secondo posto rispetto al regno di Dio. Ho presente un brillante giovane che, dopo la sua consacrazione a Cristo, divenne un predicatore del Vangelo, frequentò la scuola biblica, ma il suo lavoro e la famiglia lo allontanarono per sempre dal suo impegno nel regno di Dio. Troppo coinvolgimento alle faccende della vita rende inadatti a servire nel regno di Dio. Il terzo uomo era troppo sentimentale. Prima di seguire Cristo voleva salutare i suoi familiari. Desiderio più che lecito, ma gli affetti terreni devono essere al secondo posto rispetto al regno di Dio. Questo esempio è molto delicato, ma ho presente un credente impegnato nell'opera di Dio in modo meraviglioso, il quale decise di lasciare ogni cosa per accudire la moglie ammalata. Agli occhi di tutti questo sembra un atto di meraviglioso amore e di fedeltà alla moglie, ma se si confrontano le opinioni comuni e personali, per quanto esse possano essere lecite e giuste, alla chiamata di Cristo a mettere al secondo posto padre, madre, moglie e figli, la scelta di quel credente di abbandonare l'opera di Dio per la moglie rende perplessi. Questi tre uomini avevano delle ragioni per non essere totalmente consacrati al regno di Dio, ma Gesù rispose che chi guarda indietro dopo aver messo mano all'aratro non è adatto a servirlo. Ci crediamo? Se è così difficile essere idonei al servizio di Dio, occorre premunirci e fare tutto il possibile per evitare un simile rifiuto. Grazie a Dio non occorre denaro né andare oltremare per verificare se si è confacenti al regno di Dio, ma è sufficiente leggere la parola di Dio. Così l'apostolo Paolo si è espresso in merito. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Dato che la Bibbia che possediamo oggi è la parola di Dio, dato che Dio tramite essa è piaciuto di rivelare il suo pensiero, va da sé che essa sia in grado di insegnare, convincere, correggere e istruire su ciò che è giusto e sbagliato chi desidera consacrarsi a Cristo e alla sua opera. E, dunque, la lettura della parola di Dio che fa comprendere ciò che Dio richiede, è la lettura della parola di Dio che ci insegna come servire Cristo nel modo adeguato. Ho presente quei sacerdoti cattolici che servivano di tutto cuore Dio mediante la loro religione, ma nel loro travaglio del peso dei peccati non risolti, leggendo la parola di Dio, si sono resi conto che stavano servendo non il Dio trino delle scritture, ma una religione e, con coraggio, hanno abbandonato riti religiosi pagani per servire in modo adeguato il Dio che amavano. Da religiosi perduti e inadatti, questi sacerdoti cattolici sono diventati figli di Dio utili e idonei al servizio di Dio. E la parola di Dio che è in grado di rendere visibili i nostri errori e trascurarne la lettura. È un errore che si paga caro. Errore che si nota in quelli che si accontentano di seguire la propria morale o quella collettiva. Se la morale dell'uomo fosse quella di Dio, Gesù non sarebbe venuto sulla terra dicendo di essere la luce del mondo. Se appartenere ad una religione con elementi cristiani fosse sufficiente, Gesù non avrebbe condannato severamente dei religiosi che mettevano in pratica la legge di Dio. Perciò, se si vuole servire in modo degno Cristo Gesù, occorre innanzitutto lo sforzo di mettersi in discussione e verificare ogni giorno se il proprio comportamento religioso sia conforme al volere di Dio, poi in seguito avere il coraggio di mettere in pratica la volontà di Dio anche se ciò costa la reputazione e si è esposti a critiche, non dobbiamo pensare che oggi i cristiani siano accettati dal mondo perché, come dice la Scrittura, questo è solo un periodo dove essi sono sopportati, il che significa tollerati. Termini indicanti un periodo d'attesa prima di esprimere la propria opposizione. Chi crede a quanto la Scrittura afferma si preoccupa sempre più di piacere a Dio, di essere idoneo al servizio del regno di Cristo e attende il premio che Dio ha preparato per coloro che lo amano. 9. Daniele 9:1-2. La lettura della parola di Dio ci porta a conoscere il futuro. Conoscere il futuro è una delle necessità più forti dell'uomo, lo dimostrano i milioni di persone che si interessano all'oroscopo o consultano maghi e indovini. Eppure, a pensarci bene, conoscere il futuro è controproducente e a volte angosciante. E controproducente perché se potessimo conoscere in anticipo ciò che ci succede, non gusteremmo pienamente le gioie del presente e vivremmo in continua attesa degli eventi negativi. Penso a un carissimo credente che aveva consacrato la sua vita alla causa di Cristo, si era sposato ed aveva allevato i due figli, meno maschio e una femmina, nel timore di Dio. Dopo la sua morte avvenuta per un tumore, sua nuora lascia il tetto coniugale e due figli per andarsene con un altro uomo. La figlia, dopo un matrimonio alquanto complicato, ancora molto giovane, rimane vittima di un incidente stradale lasciando due bambini in tenera età. Conoscevo questo fratello e anche la sua sensibilità agli eventi della vita e sono sicuro che se avesse saputo in anticipo ciò che sarebbe successo ai suoi figli, avrebbe vissuto con un cuore affranto. E che dire della gioia degli sposi nel giorno del loro matrimonio? Potrebbero essere felici se sapessero di arrivare al divorzio dopo una settimana, un mese, un anno, 10 o 20 anni? Chi di noi andrebbe in ferie al mare o in montagna tutto gioioso e speranzoso, sapendo in anticipo dell'incombenza di una disgrazia che segnerà per sempre la nostra esistenza? E un bene per l'uomo non conoscere il futuro, perché questo è il solo mezzo per vivere serenamente e godere del presente. Inoltre, se il futuro si potesse conoscere, questa conoscenza produrrebbe in noi un'angoscia senza fine, perché sapremmo che non possiamo evitare le disgrazie. La speranza è un grande sostegno, meno al punto tale che perfino la speranza insensata produce nuove forze. Meno, ma se io sapessi con certezza di rompermi una gamba fra un mese in un giorno preciso, non vivrei forse in angoscia dell'attesa di quel giorno? Tutto quello che faccio al presente per stare bene con la gamba perderebbe la sua importanza, perché tanto saprei di dovermi inevitabilmente rompere una gamba. Chi di noi annaffierebbe un orto, sapendo che il giorno dopo pioverà abbondantemente? Chi di noi spenderebbe una barca di soldi per curarsi l'udito in un orecchio o la vista in un occhio se sapesse in anticipo con certezza di perdere comunque irrimediabilmente tali sensi? Conoscere il futuro, dunque, non è affatto vantaggioso. Anche se conoscere il futuro non ci è molto di aiuto, il Dio Trino dei cristiani si è preoccupato di far conoscere gli eventi futuri a chi ha posto fede in Lui. Ma non tutti i credenti conoscono ciò che succederà. E non perché Dio è venuto meno alle sue promesse, ma perché i credenti non leggono la parola di Cristo. Vi sono due esempi nella Scrittura molto significativi. Il primo lo cogliamo dal profeta Daniele. Il profeta Daniele era uno degli uomini più intelligenti del suo tempo. Dio gli aveva dato una straordinaria intelligenza per interpretare sogni e visioni. Eppure, tutto questo non era sufficiente per conoscere le cose future. Infatti anche la sua conoscenza era il risultato della lettura della parola di Dio. Questa è la sua testimonianza. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni dei quali l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Daniele 9:1-2. Dunque, Daniele, mediante la lettura della parola di Dio, comprese che per la città di Gerusalemme ci sarebbero stati 70 anni di rovina, cosa questa che non era stata da tutti capita. Perché Daniele venne a conoscenza di questa profezia e altri no? Semplicemente perché egli aveva meditato la parola di Dio. Quindi non basta essere intelligenti, avere ricevuto dei doni particolari. Non basta essere credenti o zelanti nel campo di Dio per conoscere il futuro, ma è necessaria la lettura della parola di Dio. Anche Gesù evidenziò tale necessità nel discorso profetico rivolto ai discepoli. Riferendo degli ultimi 7 anni precedenti il suo ritorno, Gesù disse: «Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti». Matteo 24.1-5-16. Gesù aveva predetto tante cose future, ed ora chiedeva ai suoi ascoltatori di stare attenti agli avvenimenti. Ma per fare questo bisognava leggere ciò che la parola di Dio predice al riguardo. Chi ha compreso questo principio? Com'è possibile conoscere ciò che Dio ci ha già predetto se non si legge la sua parola? Come può il popolo italiano conoscere ciò che avverrà alla città di Roma se non legge la parola di Dio? Come può il mondo conoscere ciò che avverrà al popolo di Israele se non legge la parola di Dio? Sono domande che responsabilizzano tutti noi a prendere sul serio la parola di Dio e leggerla, meditarla, osservarla e infine insegnarla. Come conciliare allora lo svantaggio dell'uomo in un'anticipata conoscenza del futuro con il fatto che Dio ha fatto conoscere il futuro a coloro che gli appartengono? Egli è forse venuto meno ad un atto d'amore nei confronti dei suoi figli? Tutt'altro. Gesù disse ai suoi discepoli che erano suoi amici perché faceva loro conoscere ciò che aveva udito dal Padre, perciò far conoscere i propri progetti futuri ad un altro è un atto d'amore. Inoltre, quando Dio annuncia eventi difficili o drammatici, lo fa perché essi non sono fine a se stessi, ma fanno parte di un percorso per arrivare ad un bene ultimo e una gioia futura. Una cosa è annunciarti che un giorno la tua casa crollerà. Altra cosa è annunciarti che la tua casa crollerà, ma in seguito a questo evento doloroso troverai un tesoro inestimabile mediante il quale ti potrai costruire un'altra casa migliore per te e altre case per i tuoi figli. Una cosa è annunciarti la morte di tuo figlio, altra cosa è annunciarti che tuo figlio morirà per risparmiargli atroci sofferenze e che la sua morte produrrà un benessere a tutta la tua famiglia, compresi i nipoti e pronipoti. Così è della parola di Dio. In essa Dio annuncia un periodo molto difficile per l'umanità, anticipa sofferenze fisiche e morali, ma questi dolorosi eventi causati dalla malvagità dell'uomo saranno in seguito sostituiti dal ritorno di Cristo che verrà per regnare con giustizia su tutta la terra. E così è pure per i seguaci di Cristo. Gesù ha detto molto chiaramente che i suoi seguaci avranno persecuzioni e tribolazioni e chi vorrà essere suo discepolo dovrà lasciare padre, madre, moglie e figli per amore di lui e del regno di Dio, ma aggiunge anche però che ne riceverà 100 volte tanto in questa vita e in futuro la vita eterna. Ecco cos'anche produce la lettura della parola di Dio, conoscenza del futuro ma non terrore e angoscia. Purtroppo oggi si parla poco del puro Evangelo perché si predica una religione e non una fede, si predica un cristianesimo senza Cristo, si offre un perdono senza pentimento, si parla di una redenzione senza una nuova nascita, di un paradiso senza inferno e di un futuro glorioso senza consapevolezza della drammatica situazione di oggi. Abbiamo preso in esame 9 risultati della lettura della parola di Dio, e cioè la fede che salva, convinzione di peccato, stimolo alla santità, dono di forza e saggezza, fruttuosità nella vita del credente ed efficacia nella preghiera, idoneità del credente al servizio per Dio e possibilità di conoscere il futuro. Sono questi i tuoi risultati quando leggi la parola di Dio? Se la risposta è sì, sia benedetto Gesù Cristo, Diversamente, inizia oggi a leggere seriamente e con attenzione la parola di Dio, perché i risultati di tale atteggiamento sono incommensurabili. Novembre 2006. Ellero.